Ogni fotografia pubblicata sui giornali può essere classificata in tipologie determinate dalla funzione ideologica che svolgono. Ho innanzi agli occhi due fotografie che accompagnano un articolo dedicato alla festa organizzata da Manuela Arcuri per il suo compleanno. Nella prima la si vede mentre regge un pacco dono che sembrerebbe aver ricevuto da un sorridentissimo Renzo Arbore, e nella seconda la si vede mentre accoglie gioiosa un maialino ridotto malissimo, vittima indiretta del morbo di Creutzfeldt Jakob, sicuramente morto ammazzato, quasi certamente arrostito, portato questo maialino su un ampio tegame da due baldi giovani. In questo caso le due fotografie assolvono la funzione di registrare due momenti costitutivi di un evento, due momenti tali da rappresentare esemplarmente l'intero evento. Lei con ospite e regalo, lei che dà il là alle cibarie della convivialità. Sono a Verona in fiera, dove sono chiamato a dire la mia su questo e quello. Dico la mia su questo e quello e vedo che si è fatto tardi. Declino l'invito a pranzo e filo verso la stazione ferroviaria. Purtroppo la fiera, come spesso capita per i quartieri fieristici costruiti dagli anni 60 in avanti, la fiera è fuori città. Mezzi pubblici non se ne vedono e la strada è piuttosto lunga. Una bella camminata non può che farmi bene e gambe in spalla vado. Un po' perché il posto è fuori dal mondo, un po' perché è l'ora in cui la gente mangia, in giro non c'è anima viva. Qualche automobile che si slancia verso l'autostrada e il sottoscritto che cammina. Ad un certo punto mi si para davanti il ponte della ferrovia e una freccia mi invita a dividere il mio destino di pedone da quello delle automobili. Il locale assessore alla viabilità, o chi per lui, ha provveduto a scavare un cunicolo, diciamo così, apposito per i pedoni. Un'ottima idea, mi dico subito. Se non fosse che il tunnel è lungo, buio, e pozzangheroso. Mi ci inoltro guardando dove metto i piedi e tutto procede bene. Giunto a metà, scorgo chiaramente due sagome davanti a me. Sagome umane. Mi guardo rapidamente alle spalle e devo constatare che non sta arrivando nessuno. Guardo oltre le due sagome verso l'uscita a cui sono diretto e devo constatare che sono e sarò solo. In quel momento mi rendo conto che sono nella fotografia. In quale fotografia? In una fotografia ormai classica, in un luogo comune narrativo, in quello che in 30 anni si è consolidato come uno stereotipo della rappresentazione dell'ineluttabilità del male, o meglio, di una certa campionatura sociologica del male. Quella fotografia in cui ero incautamente cascato, era la stessa che ho ritrovato sul Corriere della Sera per l'ennesima volta l'altro giorno, 15 gennaio 2001, sotto il titolo questa volta di Baby Gang rapina e picchia una minorenne. È la fotografia debitamente oscura di un tunnel alla cui uscita si scorge una casa o una cosa qualsiasi nella luce della normalità, ma nel cui centro, stagliandosi contro la luce, si ergono tre nere figure inequivocabilmente giovanili e inequivocabilmente minacciose. Un insormontabile ostacolo per guadagnare l'uscita è il pericolo cui non si può sfuggire. Tutti noi sappiamo che non c'era un cronista con tanto di fotografo al seguito nel momento in cui la disgraziata minorenne è stata rapinata e picchiata dalla baby gang. E pertanto sappiamo altresì che questa fotografia non assolve la funzione di registrare uno dei momenti costitutivi dell'evento che viene raccontato. Diciamo che pretende di rappresentarlo esemplarmente e basta. E diciamo inoltre che non lo rappresenta secondo l'intuizione originale di un fotografo che, informato della vicenda, pensa che ti ripensa, ha cercato un tunnel, pregato tre ragazzini di figurare opportunamente per realizzare la fotografia. No, perché in effetti questa fotografia è uno stereotipo. Deriva direttamente da una sequenza di Arancia Meccanica, il film che Kubrick diresse nel 71, ricavando da un romanzo di Anthony Borges. Prelude al massacro di una persona e vuole rappresentare al contempo la faccia nascosta del perbenismo, nonché la lacuna inattesa nel tessuto presuntamente compatto delle garanzie civili cui siamo soliti appellarci. In ogni società del benessere sorgono zone franche in cui il malessere ti coglie di sorpresa. Sulla funzione di questo tipo di fotografie non ho dubbi. Viva l'iconoclastia! Non aggiungono informazione, ma contrassegnano simbolicamente l'evento, lo categorizzano, lo rendono genere, il prodotto di una matrice comportamentale che comunque ne viene veicolata. Arricchiscono il racconto di un quadro ideologico e lo impoveriscono della sua amara verità, la singolare e drammatica esperienza di una vittima. C'è del cinismo nella generalizzazione. C'è del cinismo fino alla complicità con gli aguzzini. Sto andando verso la stazione, sono a metà del tunnel, sono solo e mi ritrovo in questa fotografia che conosco bene. Più vado avanti e meglio individuo le due figure che mi si parano davanti. Sono due ragazzi neri che mi guardano. Ricambio lo sguardo, proseguo con il mio passo, si scambiano un'occhiata. Dico buongiorno, passo in mezzo a loro due e tiro diritto. Non mi giro più. Uscito dal tunnel, do una controllatina all'orologio e mi affretto perché deve esserci giusto un treno fra una decina di minuti. Torno da Roma dove non ho partecipato alla festa per il compleanno di Manuela Arcuri, ma dove ho partecipato ad un incontro con l'autore, in cui l'autore ero io, con non poche perplessità sul come spiegare di che cosa io in tutta coscienza possa dirmi autore. Il 18, la sera della festa, comunque non era il compleanno dell'Arcuri. Perché questa signorina, che peraltro non so chi sia, ha compiuto 24 anni l'8 gennaio scorso. L'8 gennaio, non il 18. Siamo precisissimi sui secondi, allorché si tratta della mezzanotte di Capodanno, ma siamo diventati più liberali, diciamo così, nei confronti di altri vincoli temporali. Perché la signorina festeggi i suoi 24 anni non lo so, ma forse dipende dalle sue cognizioni storiche. Consapevole del fatto che ai tempi di Luigi XIV, detto il Grande, già che c'era detto anche il Re Sole, la vita media arrivava a 23 anni, lei, avendola scampata, ha deciso di festeggiare. Com'è, come non è, fatto sta che la notizia di questo evento Mi è interessato per almeno due ordini di motivi. Il primo concernente i processi di categorizzazione relativi agli invitati alla festa. Il secondo concernente il pacco dono che nella fotografia stava nelle mani della fanciulla festeggiante e festeggiata. Alla festa di post compleanno dell'Arcuri, infatti, gli invitati erano 1000, ma non tutti uguali. 200 entravano gratis, i 200 che ricevevano abbracci e baci, grazie, sì, grazie, grazie di essere venuto, e 800 pagavano, poco meno sembra di 100.000 lire. Indubbiamente è il risultato di una capacità discriminatoria di primissimo ordine, sia da parte di lei, che deve avere idee chiarissime sul valore dei suoi rapporti sociali, sia da parte dei membri di questa categoria sociologicamente nuova degli invitati a pagamento, che, fatti i debiti conti, sommati i pro e detratti contro, deglutita la mortificazione conseguente alla consapevolezza del proprio status, hanno deciso che gli conveniva ugualmente. Il cubico pacco con tanto di nastrino colorato era stato regalato all'Arcuri proprio da Renzo Arbore. Mi ricordo di questo Arbore quando molti anni fa alla radio sembrava che sbeffeggiasse chi si meritava di essere sbeffeggiato. I codini, le autorità, i paludati, i tronfi, i protervi, i residuati di culture in via di estinzione per inadeguatezza alle forme di competizione sociale ed economica. Denunciava il cattivo gusto e l'incultura che gratta gratta allignavano dietro le superfici apparentemente presentabili delle gerarchie sociali più in vista. Bene, in quel pacco, dono di Arbore all'Arcuri, c'era un finto cactus che si illumina come un abat-jour e con le braccia che si muovono. Chissà come ne sarà stata contenta la fortunatissima che l'ha ricevuto. Se da un lato posso congratularmi con me stesso, come Socrate osservando le merci esposte alla vendita, aggiungendone una alle tante cose di cui non sento il bisogno, dall'altro lato non posso esimermi dal tornare su un'amara considerazione. Dalli e dalli, l'analisi alimentata dal solo cinismo porta alla complicità. La denuncia di tanto cattivo gusto, in grazia di strumenti analitici che di quel cattivo gusto non hanno saputo far emergere la matrice ideologica reazionaria, la denuncia di tanto cattivo gusto non esenta l'analista dal rischio di diffonderlo.